e questo ne ha contagiato altre persone. Ma è uno sbaglio di laboratorio questo virus, è uno sbaglio di uno dei tanti esperimenti che fanno e hanno creato questo virus, capito? È l'uomo che ha fatto lo sbaglio. Un casino, ecco. È un casino, quell'influenza è una merda, Ogni anno viene cacchiduna, ecco. Quando pensi di aver debellato la malattia che arriva l'altra subito. Cappa, rilanciamo tutto a Pierpaolo o poi fai girare. Paolo, sto facendo un bianco. Antonio. Vabbè, sono in tandem sicuramente. Cappa. E chi è rimasto? Fra, riprendi. Non mi ricordo, c'è Natalino, mi pare. Avanti Natalino. Ti ho chiamato. Via. Stavo mangiandomi una merendina, stavo fame. Magnoni. Perché Magnoni non c'è niente di cioccolato da dentro da... Ma quel cestino già, guarda, micidiale, tu sei ingordo di gelati, eh. Gelati è dolci, no, fra? Vabbè, io ho un po' mollato perché quando sono andato a farmi le analisi per farmi l'operazione, che ho dovuto fare queste analisi, e ho trovato un po' la roba sballata, e allora mi sono dato una regolata, sgomagni di astacchetto. Già, caramella, perché non sto fumando, non ho comprato sigarette, anche non sono uscito ancora, quindi non ho sigarette, non voglio niente. Mentre se caramelle sono voglio di asciarati. Se mangiati una frutta non è meglio delle caramelle, che ti hanno già i gasciari. Ma una frutta, vai a mangiare come zucchero d'arancia, di mandarini, tu vai all'ingrosso. E quando mi muore mai mi dico una che forse è verdura travaglia. Capa capa, io non so se ti convenga che si metti in piglia, stima di tagli sta roba, guarda. Io ti voglio rimanere, non ti rimanere. Non qua, è qua, il banale. Qua, sta con la patrona. Poi se ne va sottomato, se non si trova niente. Tu sei peggio dell'aspirapolvere. E mi sono subito l'acqua di un malpeso, mi sono spaventato. Ma quanto tonchini, guarda. 98 quindi, io non ti asciutta ancora. Capo non ti asciutta, non tu. Se continuano a fumare divento, arrivo a 200 kg. Tu c'è la tendenza per un po' ingrassare. Dovresti regolarti. Io sto mangiando mezzo panino svuotato dalla mollica, prima non ne sto mangiando. E tanto... sto scendendo al rallentatore, non sto scendendo come voglio io. Eppure non ne sto mangiando né primo, sì, mi mangio quel che è risalato una fettina, con mezzo panino svuotato la mollica e una frutta, un caffè e via. Tu figurati già che questo virus qua me l'ha contagiato a mia moglie io. Io stavo parlando con la sorella al computer, gli ha detto, conta anche tu a letto se ha di tu e sì. E rifà la sorella, vuol dire che il virus che ti ha contagiato Franco vuol dire che era sano. Come si ingatta, è vero. È un casino, specialmente nei posti affollati, non bisogna andare, dove c'è molta gente, in chi vi dirigi, città mercato, tutti questi posti affollati, le fiere, tutti questi posti così, ospedali, uffici, ma uno non le può fare a meno di andare poi dire, si deve un pagamento, poi questa è andare a busta. Ma l'ho preso lì a coso, a città mercato, in questa merdaccia di lavanderia. Un attimo, che vai, ho 20.000 cuti a capitolo, vai. Pierpa. Fra, è una cosa, è un'epidemia che c'è, loro non lo vogliono ammettere che sia un'epidemia, ma è così. Bisogna stare molto molto attenti. Avanti Natali. E dai, io mi stavo facendo il letto. E mi guarda qui là. Perché in domanda quella c'è di ma a mancare mi pare Gesù Cristo dal lingue. Sì. Buonanotte, tanto domani lui di presto vedrai, si è abituato così, adesso anche io dico così, poi mi scendo sempre in ghita. Mi ha riceso qui a Paccurendi. Sono ripreso un po', se tanto sono libero, non devo prevagliare. E vabbè, fatti sentire domani allora, Natali. Sì, signore, sarà fatto, uiaia. Vedi, lui è un bel lavoro, si è riaperta, via, che bello. Solo che dura poco, chi c'è un problema? Dovrebbe essere fisso. Ma se fa la metto perché è un buon uomo, eh. Io sì che sono un buon uomo, e tu geloso sì? Geloso sì? Luca Bugioni, cosa vuoi di carone e cognome e il numero del telefono? Marco Scorpio. Ah, De Ruiz. Si è fatto l'impianto in macchina. Aspida. E stava provando il tutto. Ma va tutto molto bene, eh. Si è regolato le stazionali tutto quanto, anche delle altre frequenze, perché ha detto che non aveva tempo questi giorni. E ci ha preso una bella giornata di fine, ci ha fatto il tutto. Adesso domani me lo piatto pure io, in macchina. Cava cava. Iaia. Che fa? E lui ci aveva un baracchino, ma ci aveva il 5 watt. Anche io non c'ho il 5 watt. Che bella. Comunque, quello lì è molto bello, eh. Molto bello, quello Marco l'aveva messo su, il frontalino l'aveva messo sopra, era troppo una figata. Ah, il frontalino era di quell'altro, quello di sopra, quell'altro che ne devo comprare io uguale. E capo, ma è quello che ci ha voluto lui quando è venuto a prenderlo, siamo fermati al quadrato. Mi ha fatto vedere tutto, ha fatto un paio di DX da quadrato. Come qua. Andiamo andando. Lo stavo seguendo il discorso. Ho bravo, guardati anche l'H520 Plus. È un portatile, a vedere che usava. No, aspetta, adesso il computer tu. Guardalo domani. Cava cava. Bello il magnum anche. Il magnum costa un bel 450 euro già. Adesso costa il magnum, non ti date ne più gratis, no? Bella radio, bello veramente. Ma radio, la radio, una tra le radio migliori di tutti i tempi, eh. Magnum, americano, bello. Bello. E ce ne sono belli già. Quanto 5-7 di K. Quella non mi piace l'estetica, è troppo goffo come apparato. C'è la manopola grande e l'apparato è piccolino, però ha un bel di funzioni. Ma quale stai dicendo? Ma sai, io sono sicurato. Uguale a quello che c'ha con la persona. È goffo, rimane minorito l'apparecchio, con questo manopolone che è più mano dell'apparecchio. Bella varello con l'apparecchio, mi banda quello di VUHF, mi pare che fa da 0 a 30 quello lì. Quale banda è quello? Fa VHF, VHF e HF mi pare. E se mi... Ah, 10 metri, sì. Cosa costa quello? 2000? Quello costa poco, quello che sta costa un bel poco. È un bel poco, quanto costerà 800, 900 euro? Non lo so, adesso costerà sul 2%. Però è meglio bigliato una linea di 4,40 completa. però quello che non capisco, Fra, è che invece di diminuire questi apparecchi gli americani aumentano. Quando l'ho preso io costava, mi pare, 3,80, una cosa del genere. Eh già, c'è un mediomercato di quella roba lì. Quel riformatore stava facendo Luigi l'altro giorno, di allora un momento che zona è. C'è un bel roba a buon prezzo, le antenne e tutto c'è. Rosso, infatti bisognerebbe fare una farata, però quando ci sono un po' di soldi, andare, comprare e tornare, tutti in greffa, mettere la benzina o nafta un pony, ognuno, in modo che all'altro non pesi il fatto che sta mettendo la nafta, e poi tutti i cazzi in pari andremo e compriamo i successivi. Non rubio, è provincia di Oristano. Con 30 euro di gasolio ci vai, ci torno tranquillo. Vabbè, vabbè. A volesse che paghi tutti una mangiata, ecco, una mangiata di panino, la birra e cosa. Tanto per dire. Chi ha la macchina dice, se lo fa. Ma certo, io non ne ho problemi. Perché se faccio la paghiero? Problemi non ne ho manco io. Solo che adesso ce li ho, vabbè, è vero, adesso ce li ho. Se no io c'ho la macchina a gas, con la macchina a gas consuma meno del diesel. Vabbè, certo, lui sì. Che il problema è guidare adesso, non lo fa. Andare bene, specialmente su viaggi molto lunghi. Praticamente mi ha detto anche che è meglio il primo periodo non fare viaggi molto lunghi perché si stanca la gamba, anche dopo l'operazione, figura. E beh, già non ti operano. E non lo so, sono in vista, d'attesa. Io quello che dovevo fare l'ho fatto, ho anche chiamato due volte per vedere se c'è, mi ha detto che fosse, che chiedeva l'ok al dottore, se gli dava l'ok mi operava lunedì, se no devo aspettare il mio turno. Ho cercato di spiegarglielo, gli ho detto che dovevo entrare al lavoro, che avevo fretta di farlo, e non è, cioè, mi entravano lì che c'era l'altro, capito? La prossima volta che vado all'infortunio sul lavoro gli devo portare l'operazione fatta, capito? Se no Guido si scorcia, alla fine c'è anche ragione, perché io non posso stare mesi e mesi pagandoti, se non farai, sì che fai l'operazione, tutti i postumi che vengono dopo, tipo fisioterapia, quello lì è cosa necessaria, te la fa fare, però se non fai l'operazione, cioè a quanto prolunghiamo. Tra l'altro non puoi neanche entrare a lavorare così, cosa significa andare a lavorare col menisco rotto? Lo so che non posso andare in Natale, ma io sono più paranoia, poco di fa. Se non vedo che si muovono le cose, cosa vuoi? Mi ritrovo a casa a gripa di va. Non puoi andare a lavorare già. Un lavoro che fai tu non lo puoi fare in quelle condizioni. Vabbè, è certo che così. Aspetta, come non c'è fasciata, faccio trovare fai tu. Ti aggravi la situazione, caro Gianni. Lo so, ma quello degli infortuni a me me l'ha detto, la prossima volta deve venire con l'operazione fatta, così gli facciamo fare la visita alla commissione e vediamo quanti altri giorni ci vogliono. Ma tu devi dire, l'operazione è fatta, non si può avere subito perché ci sono persone prima di me. Già glielo ho detto, ma detto, lei solleciti, l'ho già fatto, l'ho fatto già due volte, adesso penso di avergli rotto già le scatole, non... Mi hanno risposto tranquillamente, mi hanno detto che vedevano, che parlavano con il dottore, perché volevo parlare con lui, non me lo passano. Allora, se il tuo ginocchio è urgente, loro sono obbligatamente di operarti urgentemente, capito già? Sì, c'era scritto urgente nel foglio, l'hanno messo anche a fianco, ma gli urgenti ce ne sono tanti prima di me, con la stessa urgenza. Sono massari bastardi, cos'è, ragazzo? C'è anche tutto che lo fa funzionare. Cazzo, cosa sono bastardi, che cosa questo e cosa questo? tratta di, se c'è l'incontro passi in un giorno te lo fanno, e gli dà la ragione. È una cosa che si fa la mattina e esce la sera, là. Però loro dicono se c'è gente prima è giusto che serviamo prima, se non hai gli incontri e gli dà. Quando si è fatta male mia moglie, era una settimana così col male l'ho rotto e dovevano addirittura mettere i ferri e aspettarmi, alla fine gli ho messo l'incontro e l'hanno operato subito, però lì conoscevo gente. Infatti, ma se non conosci niente, chi non beva nulla? A chi giustamente ho preso la legge, chi mi so prima? Quello dell'infortunio, non te ne sbatte un cazzo, tu fregatene di quello lì. Quello lì, se non sta attento, lo puoi anche denunciare, perché tu hai messo rovinato il bus. Quella non sta attento, anzi l'ha rovinato il bus, se sa dove è. Hanno girato per fare i guglioni, li vedi. E tu mi dici, ascolta, non mi rompiamo se coglioni, se non metto il termine legale lo denuncio pure. Perché lei mi sta accusando di una cosa che io, cioè, mi sta inaccusando di cose che non gli ho detto. Lui mi ha spiegato che hanno una tabella loro da rispettare. Dice, io capisco che lei c'ha questo, però noi abbiamo una tabella per dire, per un maleuro ci vogliono per dire 2 mesi. E ti danno 2 mesi. Anche se non ti è guarito o non ti hanno operato, in quei 2 mesi loro devono chiudere la pratica. Se no gli dici cosa è di un fisio, loro sono pagati per quello. Per una frattura, perché c'era questo capocantiere, è caduto da un'impalcatura, si è fratturato il braccio e la scapola, ci ha avuto anche bandaggio la Gesù. Fatto sta che adesso gliel'hanno tolto, però dice io non ho forza in questo braccio, non riesco a sollevare nulla, e mi fa male e cose. Beh, si la manda da travagliare. Un cazzo per il trabuio. Dimostrati, tutti. Anzi, la colpa del ritardo era loro, perché loro la risonanza magnetica te la dovevano fare subito a loro. Se ti mandi ti trocca i legamenti, chi si trocca, tu crediti, cosa ha fatto d'occhio? Che un'ignorante è quello. Ma quello lo fanno proprio apposta loro, insomma, stare. Anche altra gente ho sentito, lo fanno apposta loro, capito? Se mi avete fatto una cosa del genere, mi subito denunciato, subito mi anche, prima di subito. A chi di l'incompetente è lui, la risonanza magnetica, te la dovevano fare loro, subito, per sapere cosa ci avevi. E invece mi hanno fatto fare l'ecografia, non si vedeva nulla. E quando mi ero bruciato, i legamenti mezzandati, il menisco rotto, e la colpa di là, vedi? Quindi non ti lasciare andare, che se no tu li dimentichi e passa le brutti qualche due, ti devi imparare danni morali e materiali, non solo l'altro. Però tutti i dini sugli incontri, se no non si dimentichi subito. Ma tu lo sai che la è tu. Vabbè là, detto questo vi saluto che me ne vado a letto, che ho finito tutto qua. Ci sentiamo. Ciao a tutti, buonanotte. Domani mattina ci faccia sentire, non la disturbo, va. Avanti per pa. Ma sono io. Buonanotte a tutti, dai, ci sentiamo tutto domani, vado a strada. E dai, ciao Natale, buonanotte, buon tutto, cava cava. Sì, già, in definitiva è così, questa gente anche pure a me quando mi sono contagliato il dito, mi ha detto ma questo dito, cazzo questo dito, adesso non è guarito ancora, cosa vuole? Ma dove sei andato? A Mura? Allora? E chi su è da? È sempre Edua. Ma poi la doppiede, doppiede, ho detto cosa sta schiacciando, guarda che fa male lì. E va bene, le cose dicono, va bene, ci sono le punte, mi sto facendo il pulso anche, e lui ci mette a schiacciarlo anche. E a me non mi ha fatto una manovra, mi ha fatto vedere le stelle, io penso che sia lui che mi abbia aggravato la situazione. Mi ha fatto una manovra, mi ha fatto mettere la pancia a terra, fra. Io non vedevo nulla, ha preso e mi ha fatto leva tra il piede e il ginocchio. Non ci ho visto più da dolore, ho gridato pure. E cos'è dire? Mi sto toccando il femore, ho detto sì, ma lei mi ha toccato il ginocchio, il femore parte dalla cuscia e poi da finisce il ginocchio, lei mi ha toccato il ginocchio, e toccando il ginocchio mi ha fatto molto male, ma molto, sono stato 3 giorni a dolori furti. Non lo posso immaginare. Quando mi ha troppato il dito, gli dice, tu guarda che mi sta facendo male, mi dico, ma io devo guardare, perché non lo vede il dito, c'è l'accuso, c'è l'impressione nel dito, c'è bisogno di schiacciare e fare. E lo va a dire, perché non si schiaccia l'occhio? A me lo sai cosa mi ha detto? Gli ho detto, dottore, ma il tutore quanto lo devo ottenere? E se lo tengo a vita? Mi ha detto, tanto un piede le parti basse. Capito pure i punti, no? Oramai questi punti sono natori, adesso vediamo il medico mio, cosa mi dice. Vado al mio medico, mi ha detto, no, i punti non sono natori, cioè, ci vogliono anche 3 giorni per cicatrizzarsi bene. Capite, non voglio cavare i punti, la di ma poi di una di mezzo, lui dimmi, non voglio cavare i punti, ti imbecille. Vabbè, passa almeno una settimana per i punti. Di solito tolgo dopo una settimana, fra. Ed è ancora fresca e devi stare pure attento. Ecco, allora mi sembrano cicatrizzati, chi tu sei dentro i numeri? Che imbecille. Sì, già lo conosco bene, l'ho visto troppe volte già. Ogni volta che vado gli dico la cosa e continuo a scrivere al computer, manco di gatto. Ma pare un padrone, sei imbecille, vivi. Ci sappiamo dove ci non dico, ma c'è proprio quanto vedo, ma tu sei infezione. E va a pigliare lui dentro a vestire in luce, cazzo, ma tanto mi ha fatto male, le stelle, ma guarda, io non ho mai visto le stelle, mi ha fatto vedere le stelle quello lì. E c'era uno fra l'altro giorno, sarà 3 volte fa che sono andato, e questo qui era un muratore, gli è caduto una lastra di marmo sopra il dito, immaginati, stavo mettendo questa lastra di marmo, gli è caduta sul dito e gli ha sbucciato completamente il dito, gli ha lasciato all'osso. E praticamente è venuto col dito scoperto, cioè gliel'hanno fatto togliere il bendaggio per controllarlo e se ne è riuscito a incattare, ha sbattuto la porta, ha fatto vedere il dito a tutti, ha detto guardate come mi stavano andando a lavorare, siete tutti testimoni, quel bastardo non so che cosa, lo denuncio adesso. Grazie Santa, io da voi legge in ospedale, per carità, guarda, Dio mio, meglio niente qua. No, mandano all'ospedale. Ma all'ospedale non fa lì, ha l'infortunio. Si è incazzato un bel questo qua. Uno mi ha detto che una volta gli ha chiamato i carabinieri. E sai cosa ha fatto? Ha avuto un incidente, no? Andando a lavorare, questo qui è un artista là, ha avuto questo incidente non di macchina, ma siccome è successo 4 ore prima di entrare al lavoro, risulta infortunio, c'era la strada bagnata, e ha slittato e ha avuto un incidente frontale. E lui era tutto ingessato, allora, c'aveva il busto, le gambe e le braccia, tutto ingessato. E praticamente l'hanno mandato a chiamare dall'infortunio, e si è commentando in ovviamente, ho preso chiamati i carabinieri, sono venuti a casa e sono messi anche a ridere, ma come si fa? Come fa ad andare così in queste condizioni? Ho preso, hanno fatto un verbale, firmato da lui tutto quanto, una coppia l'hanno portata all'infortunio, una coppia l'hanno tenuta loro, e una coppia la dice che l'hanno fatta a lui. E l'hanno rimandato la visita, capito? E questa volta quando è andato ci aveva solo il collare e un braccio solo gessato. Ma dice che un bel di mesi uscì. No, stavo confondendo l'ospedale, l'infortunio, lui. E poi pagano poco, anche se hanno una miseria questo infortunio. La malattia paga più l'infortunio, non ho capito perché. Allora, questa è questa qua, il 30% te lo deve dare la ditta, anzi il 40%, il resto te lo dà l'infortunio, solo che l'infortunio non ti paga come dovrebbe pagarti, ti paga tutto alla fine, quando fa la chiusura, lo fanno secondo me con scopo, di modo che dicono che questi qui si vedono la fame e poi non chiudono la pratica, capito? Quando tu chiudi la pratica ti pagano tutto il resto. Infatti di oggi è una miseria. Fatta a me, me la metto ancora, per il dito mi hanno dato, ero una settimana ero pure per il dito. Una settimana mi hanno dato. Una settimana? Quanto mi hanno dato? 200? E 304 da madre? prima è qua con la 240 euro. Vogliamo ridere, c'è cosa è arrivata a me questo mese, 500 euro. 500 euro. Esatto. Il mese scorso sì, è 40, tre mesi fa 950 euro. Tu puoi campare così, se non avevo avuto di nemmeno ero qui per di fa. Cazzo, già una miseria, non fai nulla. Non mi bastano manco per fare i pagamenti normali, luce, acqua, condominio, queste cose qua, qui sotto. E purtroppo pagano così, poi alla fine ti danno tutto. Invece ho trovato uno lì che mi ha detto, a me mi paga tutta la vita, poi la vita si arrangia con le fortune. A me mi dà lo stipendio normale come tutti i mesi. Perché no già? Come ti anche perché non te l'ho dato trascino lo stipendio? Perché non sono tutte le ditte che accettano questo tipo di pagamento, per la malattia è così, però per l'infortunio non sono tutti che ti pagano, capito? È facoltativa la storia. Porca la nostra, è così, anche io quando avevo l'infortunio non la stessi, pagavano così. Ma la malattia, non appava lì se la malattia. E la malattia sì, ti danno l'80%. Almeno sai che chi si dirà virai, buonanotte, come una del malattia e buh. Oggi fatto perché quando si è bucato di morto, anche se era mezz'ora prima, non è stata più malattia, mi ha pagato la malattia, non mi ha pagato il fortuna. Ma il fortuna non conviene. E dico una cosa, la malattia se ti fa due settimane la malattia, sei pagato al 100%, anche la domenica ti paga il sabato. Adesso io la malattia va venerdì, mi compro la malattia da venerdì, ho fatto venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ma la malattia va finita oggi. E rientri lunedì. E non mi rientrare lunedì. Ha sbagliato. È un casino con queste cose, conviene sempre lavorare fra e basta, no? Non conviene né massimare, dopotutto non l'ha avuto manco per colpa mia, che a me me l'ha fatto cacciare una commessa, non è che c'è un cacciare di colpa mia. Però hai visto quante complicazioni, un casino è già, un casino, perché i fortini sono una massa di bastardi lì dentro. E a pigliarsi di assicurazione i baroni mesi, chi si arriva unici? Assicurazione, ogni mese la baga, ne viste, e poi per queste sono le conseguenze che ci abbiamo quando siamo infortunio. E allora, è un casino. Sì che ti paga la ditta, poi si arrangia lì, la ditta è su di celia, quindi. Ma cosa ti mettono le strette così, uno, se non ha qualche cosa da parte, cosa fa? Muore di fame. Io per fortuna qualcosa ce l'ho, ma non è che poi se la fate di una cucina. Vabbè già. È un casino. Vabbè là. Non mi sembra che è meglio. Già che più passano i giorni più mi sta prendendo la pressione fra cicli. È un casino, a me me mancano 3 anni, 3-4 anni. Di che cosa? Per andare in pensione. 3-4 anni. E allora già. E quando la ragazza comincia ad assicurarmi. Ma non c'ha l'età, non c'hai 56 anni e quindi dove puoi andare? Ma io sono guato, però dico. A me me ne mancano una decina d'anni ancora. E fra 10 anni ci posso andare tranquillamente, sempre che la pensione la diano ancora. Cazzo, se ci danno la pensione a 70 anni, cazzo la vogliamo, te la vogliamo ora io. Anche su quello bisogna prevedere certe cosse. Basta farsi un'assicurazione privata, quando tu vai in pensione ti paga la pensione e l'assicurazione che ti fai. Tu mi dirai, sono denari che spendi, però poi alla fine ti trovi bene, dai, ti trovi in mezzo alla strada. Gira che ti gira, ma viene proprio a fare così Gianni. Capagava. Avanti Antonio. Grazie. No, già mi vanno proprio pure a me una cosa del genere. Tu, gira che ti rigira con Venus, io l'avevo già fatta già da parecchi anni prima che venisse tutta questa crisi, questa, e quindi me la ritroverò fra poco, però c'è gente che magari non ci ha pensato e chi dà ragione. E poi c'è una cosa, la scolatura che ho fatto io, ti servono soldi, te li danno, per dire, ti capiteggia qualsiasi cosa, un imprevisto, una cosa, non c'è nessuno, te li chiedi, loro li tolgono, poi tu li reinserisci, se li puoi reinserire, se no prendi di meno la fine. Capo, sì, sì, sì. Oh, l'abbiamo sentita questa cosa qua. No, non so, ma ne vale la pena. Qua, io penso di sì. Due sono le cose, per dire, se tu vuoi pagarti i contributi, sino a finire, per dire, ti mancano pochi anni per cambiare e pagarti i contributi, non conviene più, perché non ti danno più quello che versato, ti danno di meno, quindi non ti conviene. Sono andato al CAFO e me l'hanno fatto al CAFO questo ragionamento, e quindi conviene più farti un'assicurazione a parte piuttosto che pagare. Io volevo fare integrare, praticamente pagare l'assicurazione a mia moglie, perché ha lavorato tanti anni e mi manca un po' per andare in pensione, no? Mi manca un po' di anni e volevo pagare di mese per mese, in modo che poi avesse la pensione anche lì. Invece non conviene, conviene più fare l'assicurazione a parte, che almeno ritiri quello che hai dato in più, anche gli interessi. Sì, sì. Ho già sentito una cosa del genere. Stavo pensando, ma prima o poi la farò una cosa del genere. Ancora che sono giovane. Per cosa vento? Da giovane bisogna pensare. Perché io non avevo 19 anni quando ho pensato per farmi la casa, adesso grazie a Dio c'ho la casa mia. Avevo 19 anni quando ho cominciato a mettere i soldi da parte anche tu. Lo so, però molte volte non ci sono le disponibilità. Quello è un altro discorso. Noi poi stiamo parlando possibilità permettendo. La convenienza è quella lì, poi se non ho una possibilità è tutto un altro discorso. Che vegare. Avanti Franco, vediamo un po' se vuole entrare qualcuno, avanti se vuole entrare qualcuno sul canale 21 Gabo. Mi pare che non c'è nessuno. Pare che alla gente gli piace solo ascoltare. Che gli brucino le orecchie a chi sta ascoltando. Allora dice come una reccia che ha col te. Gabba, scherzo. È così, bisogna prevenire, perché stiamo andando a finire incontro a un brutto momento. A chi più travaglio non v'è, e cazzo li pagano le pensioni, nessuno, a chi i giovani davano sono travagliati, non v'è travaglio, sono tutti licenziati, anche gli anziani, la gente di 50 anni, 50 anni, dove va a lavorare? Poi si lamentano che rubano, che fanno, per forza, si vanno a rubare che ci dà gli affetti. Cazzo che rubanzi, ma se prima una metà ancora di noi che sono pure a nasciare, non per quella devono cominciare la crisi che mi pure le macchine in tre. Cioè molti ce la cercano anche. Vabbè, Antu, io sto facendo un discorso generale, c'è anche chi se ne frega del lavoro e fa cazzate, quello sì. Ma io sto parlando delle persone serie che vengono licenziate, magari 51 anni, 52 anni, cosa fai? Sì, pure quello è vero. Purtroppo ho subito anche tutti i casini che sono successi ultimamente. Stiamo arrivando a livelli proprio terra a terra. Ma voi dragliete che andate a furare, perché sto andando a furare? Non la mani travaglio, cosa fate? Ne andate a furare, no? Vabbè, di rame e non pone pulito. E uno si arrangia come può, anche se io non ammetto queste cose, però se uno non c'è in mezzo non riesce a capire, fra, quando si c'è per un padre di famiglia con 5 figli da allevare e cose, che non c'è lo stipendio ogni mese come era abituato prima, che c'ha i pagamenti in base a quello che prendeva, e adesso di colpo si trova a 0 lire, perché si trova a 0 lire, 0 euro, cioè. Tu pensa al cambiamento, arriva chi si un condominio e non vale di nada, arriva chi dà e non vale di nada, arriva un bollettino di bus e non vale di nada, e cosa fai? La ruzzi non vale di nada, e cosa fai? E alla fine vai allo sfascio, non riesci più a recuperare. Un casino, purtroppo succedono anche queste cose. E quando ti trovi così uno si spera davvero, non sapete cosa fare. Disperato è. Io vado un attimo a bere un po' d'acqua. Ma ce l'ho già. Purtroppo. Purtroppo esistono anche queste cose qua. Ho visto gente che non ha lavoro. Non c'è niente, poi mutui, quando tu c'è un mutuo da pagare, quando c'è altre cose da pagare, quelle sono condanne, così sono condanne a vivo. Ehi, hey, Anto, scusa un attimino, che devo andare un secondo solo, dai. Cosa? Chi sta lì qua? Vengo, aspetta che va. La porta adesso, Non sentivo nessuno io. C'è la porta aperta. Ci credo, ma adesso non c'è nulla. E allora? Adesso cambio voce, così almeno mi sentite bene. Ecco, sempre siamo all'avventura. Buonasera a tutti. Ci troviamo in questa pubblica piazza. Oh, c'era un concerto stasera in piazza, lo sai? Già lo so, concerto di Morata, ecco. Ma c'era un po' di cantanti, di cose. Ah, allora, vedi che c'è Giuliano. Sta facendo un'era. E ci troviamo un concerto, non sai, è proprio vedo la presa. Già lo so. Martino Di Bianco, che mi sembra ci sia una chiamata, avanti. Già ti sento Alex, ma non c'è segnale, dove sei? Non esci manco di segnale, solo la radio appena per appena, ma perché l'apparecchio lo consente, se no non ti avevo manco inteso. Attacca l'altro, vai. Io non lo so se ti ascolta, però ascoltati Alex. No, negativo. Con un portatilino sotto casa sua, ma non esce manco di segnale, solo la radio. Non lo sentiamo. Detto che lui vi sente. Ma io niente, neanche si muove. Tante la mano non vedrà a casa sua. E già ci sono, sono qua. Prendi Arturi. Ma non arriva niente proprio. Già di papà sono attesi per immaginare. Sì, ma c'è il basso. Se lo facciamo una persa, se fosse stata un goccio di corona non l'avrei sentito. Proprio pio. Che gli appena adesso. Sono in cuffia e col manico, quindi ha un bel ricezione questo qua, ti sento perfetto. L'antenna dell'apparato. Come mai non c'è l'altro, Alessandro? La magara. Vabbè. Aia, un casino. Riprendi... Piedino. Cos'è il portatore che aveva anche quello di sempre? Pensate, il portatile è quello che c'è di sempre. Guarda del plus, è sempre quello che c'è in macchina per fare. Ah, ho capito. Lo so, ti dico dentro l'abitacolo della macchina. Ho capito, capito. No, qua non arrivano, niente, nulla. Vabbè, ma col suo coso poco arrivano, Adesso. Per fatto che ti copio perfettamente a te. Ha detto che se per poi attacca il portatile deve essere un sintomo. Adesso il segnale non ce l'hai, però la radio è aumentata. Cos'è fatto? Ti sei avvicinato. Ecco, adesso si è arrivato appena più forte del radio, però il segnale non c'è. E adesso proviamo a far parlare a Pierpaolo. Io sì. Vai, 6-9 quasi. Paolo adesso è col portatile, prova ad essere un 6. Quasi 9, sì, 6-8, va. Cosa, la radio è buona, ma la radio sembra qua. Forse perché noi abbiamo questo varco che ci comunica. Ah no, la radio è buona, senza ombra di smash, il processore c'ha. La radio è buona, va molto bene. Capo, Ce l'ha proprio l'attacco. l'ha sempre attaccato lui, senza mettere né BNC né niente, c'ha un altro capo a parte, non l'ha fatto vedere, c'è un altro capo a parte che scende e l'attacca, non c'è bisogno. Va bene, ok. Ah, quelli a due, come ce l'hai tu, forse c'è Pierpa? E quindi non c'è l'altra parte, capito? Sicuramente è così, dai. Come va a provarlo così? Quello che abbiamo noi è un pochettino un attacco un po' particolare, un po' diverso. Già va bene lo stesso, dai. Via, quanti mai mille attaccato le l'hai fermato? Come spiegatelo, c'ha la scatola esterna che è l'alluminio invece che essere in plastica, arrotondata davanti rimane. Non c'è problema, non c'è problema. La posso sempre modificare. Io te la posso pure di più. Buonanotte, muchachos.